Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Blue Monday. Il giorno più triste dell'anno. A sostenere questa tesi c'è una controversa equazione calcolata da matematici e psicologi inglesi. Tende a far cadere il Blue Monday di norma il terzo lunedì di gennaio, quindi oggi, ovvero quando l'euforia per le feste di Natale è già svanita e ci si rende conto di ciò. Per favore, levatemelo di torno. Già sto abbastanza triste oggi per sentire anche questo giovincello che ci ricorda che oggi è la festa del Blue Monday. È un controsenso, mi rendo conto, una contraddizione in sé, eppure è una festa. È segnata nel calendario laico, il terzo lunedì di gennaio è il giorno più triste dell'anno e tutti siamo d'accordo che così sia. E il mondo si muove perché oggi dobbiamo essere tristi, come dobbiamo essere per forza lieti, che ne so, a Natale tutti buoni, ci vogliamo tutti bene, pensiamo tutti a quelli che stanno al freddo e al gelo. D'estate tutti allegri, dobbiamo tutti andare in vacanza, che bello, partiamo, sole, mare, non vedo l'ora, mamma mia, mi faccio un selfie, mando la foto così poi le amiche mi invidiano. Giornata nazionale, non so di quale terribile ricorrenza, tutti partecipi, siamo tutti vicini, improvvisamente tutti ci rendiamo conto, ci ricordiamo, che ne so, che in quel tal giorno, in quella tale epoca glaciale successe qualcosa per cui dobbiamo tutti avere la faccia di circostanza, e quindi in questa sorta di catena del consumismo delle feste tarocche c'è anche il Blue Monday. Ma tutto nasce, ormai lo sapete, c'è un fantomatico psicologo, si chiama professor Cliff Arnold dell'Università di Cardiff in Galles, che continua ogni anno a smentire che mai ha avuto questo professore, mai fatto questo studio, che aveva messo a punto un modello matematico perfetto, per cui per un insieme di componenti, le feste natalizie che sono ormai scemate già da qualche settimana, i soldi che abbiamo speso inutilmente, ci rendiamo conto che potevamo tenerci invece che fare regali inutili a persone ingrate, il fatto che finalmente ora si prenda coscienza che la vita ricomincia, c'è un anno che ci aspetta, nuove responsabilità, nuovi impegni, nuove persone da soddisfare, nuove persone in cui relazionarci, e poi le giornate sono buie, sono tristi, incombe il maltempo, insomma oggi vedete io sono perfettamente in linea con la festa, come fosse il santo del giorno, che bisogna ricordare il santo del giorno, oggi è il giorno della tristezza. Beh, voi come ve la passate questo Blue Monday? Siete d'accordo che oggi bisogna essere tristi? Guardate, lo sanno tutti, ci sono già le aziende che fanno commercio online, che danno grandi offerte, sapendo che oggi qualcuno dovrà compensare la tristezza, autogratificarsi, tutti giù lì a comprare cose, a comprare, che ne so, trattamenti alle terme, vestiti, abiti, biancheria sexy, qualcosa che ci faccia uscire da questa tristezza. Non possiamo fare a meno di essere tristi, è Blue Monday, quindi siamo tristissimi. Raccontatemi oggi lo spessore della vostra tristezza, potrei anche compensarvi. Di solito diamo libri infami, oggi daremo dei libri tristissimi, dei libri che suggellano la vostra tristezza. Visto che oggi bisogna essere tristi, festeggiamo Blue Monday, siamo tutti tristi. A tra poco. Melog. Cronache meridiane. Questi erano gli Yardbirds. Ora abbiamo una telefonata in diretta. Pronto, come ti chiami? Mario. Ciao Mario, come stai? Come sto? Sto male. È una carica molto negativa oggi, eh? Diciamo che al limite sto così. Però io sentivo che le risate tue, lui che cercava di essere allegro, lo capisco. Perché io ho fatto finta fino a un paio d'ore fa. Io sono rientrato da 2 ore e ho fatto finta. Adesso la mattina quando esco faccio finta, vado a prendere un caffè e faccio finta, fumo una sigaretta e faccio finta, dico 2 parole in una certa maniera e faccio finta. Stasera un'altra mazzata l'ho avuta tipo facendo un incontro, ho incontrato un etiope, un mio amico, studente universitario, etiope, e ci siamo incontrati... 800024, ci credete che oggi deve essere per forza il giorno più triste dell'anno? Qualcuno ci crede veramente, gira notizie, ma poi sai, sono quelle notizie bufala, come probabilmente tutta una grande bufala nata 17 anni fa, questa del Blue Monday. Beh, già, leggo che Questa mattina nel Regno Unito molti non vanno al lavoro, perché è il giorno della tristezza, bisogna stare chiusi in casa e crogiolarsi nella tristezza. Oggi vorrei testimonianze di tristezza. Chiariamo subito il campo, non voglio nulla legato al dolore vero, al dolore reale, alla patologia, alle vere circostanze che ci danno non solo mestizia ma anche afflizione, dolore, disperazione. Non parliamo di disperazione, parliamo di questa tristezza tarocca, questo appiccicaticcio di mestizia che dobbiamo per forza assumere oggi per essere in linea coi tempi. Quante persone si manderanno messaggini questa mattina dicendo oggi è Blue Monday, mamma mia come mi sento giù, tu che fai? Ma non so, faccio un po' di yoga per tirarmi su, vado dal mio maestro di vita, faccio un po' di respirazione, io dico il mantra, tu che fai? Ma io vado a fare shopping. Guardate che in testa ai trend topics di Twitter, che è il più tarocco, fatuo, cyber fighetto dei social network, c'è naturalmente Blue Monday e quindi tutti mandano facezze, scherzi, ma nemmeno tanto sul fatto che oggi occorra essere tristi. Diamo un senso a questo obbligo della tristezza. Sì, perché se oggi si ricorre, c'è una ricorrenza, è diventata una giornata nazionale, è come Halloween che dobbiamo tutti sventrare le zucche e vestirci da fantasma e i nostri bambini vanno a dire dolcetto e scherzetto. A me diverte molto, non sono un moralista che dice ah, è una festività pagana, non compete la nostra tradizione cattolica. No, non c'entra niente. Blue Monday ormai è entrato nel nostro calendario. Come una settimana fa dicevano che era il giorno dell'adulterio, ma lo diceva un sito che è specializzato nel far incontrare le persone già sposate, quindi era pro domo sua. Probabilmente anche dietro al Blue Monday c'è un discorso commerciale, ma come c'è anche dietro, che ne so, alla festa degli innamorati, che dietro c'è una scatola di cioccolatini fatte per essere regalati agli innamorati. Non so, oggi vorrei capire quale complotto muove il Blue Monday secondo voi. Avete un'idea? Qualcuno, ho già detto prima, mi ha segnalato che i siti online fanno delle offerte speciali. Non sapendo più cosa ancora appiccicare, come raggranellare gli ultimi sgoccioli delle tredicesime ormai esaurite, delle risorse economiche di chi è abituato a acquistare di tutto, oggi magari combatti la tristezza e compri qualcosa, potrebbe essere questo. Magari oggi sono pieni i ristoranti, sono pieni i locali. Oggi probabilmente il lunedì è il giorno di chiusura per i parrucchieri, magari, ma magari oggi tutti sentono improvvisamente bisogno di fare qualcosa per loro. 800 24 00 24, cosa vi siete inventati, come reagite voi per il Blue Monday? Fermiamoci un istante mentre voi riflettete, sentite qualcosa che probabilmente darà un senso concreto alla vostra voglia di tristezza in questa giornata. Oggi 5 ottobre ho traslocato in casa di un amico del babbo. Che è? Il diario che la signora maestra ci fa tenere alla fine di ogni giornata. Brava, intelligente codesta maestrina. Lui dice di essere Conte, ma invece sta in un seminterrato alla giapponese. Tutto di accio e umido, senza telefono, senza acqua calda, col cesso coi piedoni e un fornelletto dove la moglie ci ha cucinato una frittatina di due uova che abbiamo mangiato in tre. Più un rinforzino, come lo chiama lui, di 9 olive di numero, mezzetto di stracchino e un quarto di vino sfuso. Tutto, vitto e alloggio, per 150.000 lire, che mi pare proprio una rapina, anche se lui, per fare il conte, chiama Castello un aggeggio di tre locali. Loculi. Di tre loculi, dove mi toccherà dormire assieme alla moglie, una donnetta secca e rifinita come il suo nome, Alice, e la figlia Mela, che per fortuna non dà noia, perché è un'handicappata incapace di parlare e camminare alla sua età. Io dico che questo è uno spezzone di sana quotidiana migragnosa tristezza che si respirava a casa del conte Mascetti in Amici miei, il bambino che non resiste di vivere in quella sorta di universo tarocco fittizio, di un blasone perduto lontano ammuffito ormai alla deriva, viveva in una stamberga di praticamente pane e acqua e ristrettezze, e il bambino lo scrive nel tema. La verità del bambino mette a luce la tristezza. Negli occhi tristi dei bambini tristi, che sono rappresentati dall'inizio della scoperta della fotografia in tutte le rappresentazioni di bambini che dovrebbero essere felici e sono altrettanto tristi oggi nei selfie gloriosi delle madri, è raccontata una chiave della tristezza quotidiana. 800 24 00 24. Date sfogo alla vostra artificiale tristezza oggi, ne sarete compensati, come accadrà a Marcello. Marcello, buongiorno. Sì, buongiorno. È triste abbastanza oggi? Ma guardi, io oggi il mio onomastico, perché è San Marcello Papa. È già chiamarsi domani... Marcello. Marcello Papa si chiama lei? Sì, no, io Marcello il Papa Marcello era il santo, io per adesso non sono ancora Papa. Ma ci sono altri Marcelli nella storia dei santi? Questo non lo so. Quindi... Io festeggio il mio e domani diciamo... Lei appena ebbe l'età della ragione, sua madre disse: tu sei Marcello Papa. No, Marcello... Marcello Papa era il santo Papa. Sì, ma di tanti Papa. Marcelli santificati, che lei sia proprio Marcello Papa, gliel'hanno detto quando era piccolo. Sì, sì, me l'hanno detto che ero piccolo. Questo è posto. Le sto dando spunti di mestizia. Ah, certo. Dovresti ricordare Marcello Papa tutti gli anni, già questa è una cosa che... Però non finisce qui, perché domani è anche il mio compleanno. Ma è una sfiga immensa. Cioè, però... il sadismo dei suoi genitori è arrivato al punto tale che le hanno dato un nome di battesimo che anticipava soltanto di un giorno il nome del compleanno, così facevano due regali in uno praticamente. Esatto, esatto. Vabbè, è una micragna terribile. Mi racconti questo suo ponte fra onomastico e compleanno, perché veramente lei oggi merita di essere premiato. Ah sì, guardi, l'onomastico comunque non è che l'abbia mai festeggiato più di tanto, ma anche i miei fratelli, i miei cugini, le mie cugine non... Poi gli dicevano: domani è il compleanno, arriva il regalo, così facevano. Esatto, diciamo che era un anticipo, diciamo, la cosa si fermava agli auguri. Ecco. Auguri, domani è il compleanno, vedrai cosa sì. Ti regaleremo. E invece il giorno dopo? Il giorno dopo è il compleanno. Quindi... E cosa regalavano di solito? Ma di me? Dipende dall'età, dipende... Robaccia triste naturalmente. Sicuro. Soprattutto gli ultimi anni, che magari i primi anni, ecco, da bambino qualche giocattolo, qualcosa che... Sì, ma roba che lei non desiderava, che giocattoli no, assolutamente, squallidi. Assolutamente. Sapientino, però... i giocattoli utili che nessuno voleva. Sì, roba che... E lei quindi oggi, con questo suo ricordo di devastante fanciullezza, può finalmente essere felicemente triste? Ah, oggi sì, oggi proprio sì. Si è svegliato triste, sì. Ma sì, già il periodo non è che sia il massimo, il tempo non aiuta, certo, e poi... L'equazione di Cliff Arnall è matematicamente perfetta, ci sono tutte le componenti, un algoritmo che funziona. Non mi manca niente, ci ho messo anche dentro il compleanno, che quindi insomma... Quindi domani è il suo compleanno? Ma io pensavo addirittura di festeggiare il mezzo compleanno, quindi festeggiarlo... Ogni 6 mesi, cioè ogni anno. Ma così recupera, ne fa 2 all'anno, questo le va dire. 2 all'anno, magari omettendo questo, festeggiare ogni anno. Adesso lei ha qualcuno vicino che si occupa di lei, che fa finta di volerle bene oppure solo? Sì, sì, che fa finta, sì, ce ne sono. Chi è? La moglie? Ho mia moglie, mia compagna e due figli. Ah, quindi è bigamo? Vabbè, sta messo bene. Ha detto mia moglie e mia compagna. No, mia moglie, c'è la mia compagna. Poi, no, e sua moglie, sono due? O una? No, la mia moglie, poi mi sono corretto, la mia compagna. Ah, vabbè, perché non siete sposati. Ecco. No, non sono. E questa signora cosa fa per renderle ancora più triste questa giornata di passaggio? Guardi, se vuole, un anno ha fatto, mi ha regalato praticamente un giocattolo per il mio bambino. Quindi questo è il tuo regalo. C'è un cavalluccio ad ondolo, ci tieni, può darlo al figlio. Però per il figlio, sì. Vede che andando a scavare comunque è motivata l'equazione. Senta, guardi, lei mi ha fatto aprire bene la giornata della tristezza, le farò un regalo. Sì. Il più triste dei libri possibili che avevo, Felicità in questo mondo, è il titolo. Sì. Però il sottotitolo la spiega. Mitra. Un percorso alla scoperta del buddismo della Soka Gakkai. È una bellissima corrente del buddismo che sono tutti felici, ridono sempre. Lei compri, avrai in omaggio questo librettino da 2,58 € che potrebbe anche comprarsi, ma glielo mandiamo noi. E con questo il prossimo suo mezzo compleanno e mezzo onomastico sarà instillato di un mantra che ripeterà continuamente, adesso non mi ricordo bene quale sia, e con questa formula cementificherà per tutta la vita la tristezza di questo giorno. Bravo. Franco, buongiorno. Buongiorno. Secondo me uno dei motivi per cui questo giorno di gennaio è stato indicato come triste, c'è anche un altro fatto che lo rende fondata questa data, cioè che la bilancia presenta il conto un po' di quelle, no, non dico dei bagordi, ma un po' di quelle... Ma la bilancia in senso zodiacale o in senso strumento per pesare? No, di spesa persone che si ha nella camera. no? Presenta il conto di quell'indugiare a tavola durante le feste, ma neanche Bagordi. Ma perché ci se ne accorge solo al terzo lunedì di gennaio? Vediamoli capire. Questo me lo chiedo, perché durante qualche pesatura test, durante le feste, sembra che non ci siano conseguenze. Invece, per qualche mistero del metabolismo, proprio in questa metà di gennaio... Quindi è un lardo insidioso. La bilancia presenta il conto. È un lardo insidioso che si annida in maniera volatile e non pesante per darci questa sorta di euforia, di ebbrezza, che il peccare sotto Natale sia un peccare lecito, che bello, i cappelletti, il cappone, gli amici, le nonne, le zie, i parenti, lo schifo, i bambini, tutto questo possiamo mangiare, tanto non si ingrassa. E adesso poi, come una sorta di tagliola orologeria, come una mannaia che scende, lei si pesa la mattina del terzo lunedì e si vede, lei di quanto è ceduto rispetto al peso forma? Ma giusto per rattristarsi, 2 chili. Due chili già rasenta il rischio del mal dell'agnello, che è un innominabile male perugino. Sì. Stia attento. È triste. In più non ci si può neanche consolare, perché appunto, no, un bel pezzo di gorgonzola spalmato sul pane sarebbe molto consolatorio, ma non si può, anzi bisogna cominciare a... Vabbè, senta, guardi, io non so che darle per farla ancora più triste. Le regalo il diario di Bridget Jones, che è un libro per signorine, quindi se lo leggerà si farà una ragione del mal dell'agnello, che ormai l'avrà colpita in maniera inesorabile. Alla prossima, 800 24 00 24. Abbiamo cominciato bene, continuate nel raccontare i motivi per dare corpo alla leggenda del giorno più triste dell'anno. A tra poco. Fineco, la banca che semplifica la banca, vi presenta Melog, cronache meridiane. Che ne dici di quella volta con Meg, quando Riley ha riso così forte che il latte le è uscito dal naso? Andiamo, è stato buffissimo. Più male, sembrava fuoco, è stato terribile. Va bene, non pensare a quello, proviamo qualcos'altro. Qual è la cosa che preferisci? Che preferisco? Mi piace quando stiamo fuori. Bravissima, tipo in spiaggia, con il sole. Oh, come quella volta che abbiamo seppellito papà nella sabbia fino al collo. Oh, io pensavo più alla pioggia. Pioggia, la pioggia è anche la mia preferita. Possiamo saltare nelle pozzanghere, giusto? Ci sono gli ombrelli colorati, i temporali con i fulmini. La pupattola azzurra, che tristezza, in Inside Out, è il personaggio che ha creato più successo, chissà perché. Quella che c'ha la sfiga cementificata addosso, è quella che piace più ai bambini, ma soprattutto piace alle mamme. Questo era un film per mamme, non per bambini, un film in cui i sentimenti incontrollati, gli stati d'animo, si contendono il predominio sulla titolare di tutti questi diversi modi di sentire la giornata. Oggi dovete sentirla blu, dovete sentirla triste, perché è Blue Monday. Oggi è stato deciso che è il giorno più triste dell'anno, da 17 anni. Mi continuano a chiedere, facendo i furbetti, le ragioni scientifiche di questa giornata. Non ci sono, è chiaro che è un grosso bufalone, ma lo è anche la festa degli innamorati. Se andate dentro il sarcofago di San Valentino a Terni, che è un sarcofago d'argento gigantesco, il santo degli innamorati, non c'è niente dentro. Lo disse una volta il prete che sorvegliava la chiesa, dice: il problema è che dentro qua non c'è niente. Dice: perché? Ma perché non so, non c'è certezza storica di questo San Valentino, non si capisce perché poi sia il santo degli innamorati. Ma la Perugia, che sta qui a quattro passi, un giorno si inventò che doveva esserci la festa degli innamorati, e quindi tutti a pregare San Valentino: San Valentino, ti prego, fammi trovare un omettino da modo che mi voglia bene, che mi ami e poi anche mi sposi, e viceversa lo sfigato: San Valentino, ti prego, dammi una donna, basta che respira, dammi una donna, ti prego, non ce la faccio più. Ecco, questa è la sintesi della festa degli innamorati. Riccardo, buongiorno. Buongiorno. Lei ha la voce troppo allegra, oggi bisogna avere la voce triste. Faccia, allora, faccia la voce triste. Voce triste. Farò una voce. Mi sono alzato da poco, quindi farò mamma una voce mia, più. Non me lo dica che giornata oggi. Giornata triste. Praticamente è successo questo. Ieri era il mio 33° compleanno. Gli anni di Cristo, pensi un po'. Hai capito? Brutto, potrebbe essere l'ultimo. Ci avevo fatto ironia, forse per questo mi ha punito. E che è successo? No, non rida, guardi, solo voce triste oggi. Ok, allora. Non faccio ironia. Quindi. Ho organizzato ieri sera un aperitivo aziendale. Ma dove? In casa sua? No, qui vicino a Lido di Camaiore, sono in Versilia. Ma com'era il posto? Un posto normalmente pieno di gente, di vita all'estate, d'inverno sarà una tristezza. Esatto. Beh, giustamente, così ha risparmiato pure, tra l'altro. Ho risparmiato. Devo anche andare in discoteca, ma... esiste un luogo più... È l'anticamera della camera mortuaria, la discoteca, secondo me. La discoteca, sì. Fatto sta che... Allora, entrate in questa bellissima capannina a riva al mare, senza riscaldamento. Io faccio questi inviti informali, chi c'è, c'è, non sto... Chi è invitato? No, chi è invitato informali? Tutti i miei colleghi. Più o meno tutti i miei colleghi. E facevate, giocavate a briscola fra uomini poi? siamo una pasticceria, quindi facciamo i dolci, cose normali. Beh, non sarete tristi, voi che fate tutti i giorni i pasticciotti con la crema dentro, non potete essere tristi. No, fondamentalmente no. Siete tutti colleghi maschi siete? Alla fine, no, c'era anche una collega, una ragazza. L'unica? L'unica. Quindi qual è il rapporto maschi-femmine? 7-1? Abbastanza cameratesco. No, quindi... rapporto numerico 7-1, 6-1. No, direi che è abbastanza 50%. 50%. Ma avete detto siete tutti maschi e una donna, col dire al 50%. Il laboratorio sono meno donne. Va bene, quindi lei aveva invitato anche loro alla festa, naturalmente. Sì, ho invitato tutti. E il fatto è che i miei colleghi hanno cominciato a disertare pensando all'invito, pensando che... Rimangiavano le stesse pastarelle della mattina che hanno fatto, che gli riproponeva. Erano stanchi, erano... Ma cosa si mangia? Scusa, dei pasticceri quando fanno una festa, che portano a mangiare? Questa è una domanda triste. Io non ho portato il dolce perché... No, ci mancherebbe pure, scusi. È come se un meccanico porta una puleggia, un semiasse, un falegname porta una sega. Cioè, non fa ridere. Portare il lavoro a casa, portarselo fuori non è... Ma che vi mangiate voi pasticceri quando fate un rinfresco? Non mi mangiamo viene quello che facciamo alla fine. Ma è la stessa roba che avete per le mani tutto il giorno. Quando siamo lì e c'è fame non si discute, si prende. È come se io c'era. Facessi una festa e portassi la minestrina che mi fanno tutte le sere a casa. Cioè, c'è anche chi lo fa. Comunque è triste, anche se avevate un dolce bellissimo e voi è triste che quello che fate tutti i giorni. C'è ancora il profiterol davanti, ne posso più. Vabbè, allora questa festa che succede? Allora, il succo qual è? Hanno cominciato a dare buca tutti nel pomeriggio, alla fine si è presentata l'unica ragazza, quella insomma... del laboratorio. Che funzione ha nel laboratorio questa ragazza? È un aiuto di laboratorio. La riempitrice, diciamo. Aiuto pasticcere. Pensando tutti questi ragazzi, io diserto così, magari restate voi due soli, soletti. Ah, perché girava voce che lei ci volesse provare con questa? Gira voce che io insomma mi frequenti con questa ragazza qui. Ma è vero? Non è vero. Però le piacerebbe? Ma non so, perché non la conosco approfonditamente, quindi ecco, diciamo che non glielo so dire al 100%, però... Guarda caso, però, sono messi tutti d'accordo, lasciamoli soli. Una cosa triste, queste cose me le ricordo succedevano dalla terza media al quarto ginnasio, che succedono ancora a 33 anni, mi sorprende. Ecco, fatto sta che lei, insomma, la serata prosegue tra aperitivo... Voi due soli? Sì. Con dolci per 20 persone. Ma per carità, quindi abbiamo fatto un sushi triste. No. Cioè due soli nella capannina al freddo, con le cozze attaccate al muro, con le immagini del mare, e mangiate il sushi dentro il cartone. Dopo. Prima aperitivo e poi sushi. Che avete bevuto? Io ho bevuto un vino rosso, lei è un analcolico alla frutta. Che non schifo, mi nessuno dei due ci azzecca con il sushi. Poi? Dopo il sushi, dopo ci ho messo un vino frizzante veramente pessimo, bianco, quindi si immagini. Quindi lei aveva già attacchi di dissenteria, la ragazza. Vabbè. E quindi com'è andata a finire la bella serata? Nel niente, non è finita, non è vorrei vedere. Nulla, cioè... no? Voglio dire, l'ironia della sorte, oggi è l'anniversario della pasticceria, sono 7 anni che ha aperto. E quindi deve fare un'altra festa? È un'altra festa, però è Blue Monday, quindi sono triste. Ma non ci viene nessuno, ormai guardi, già i suoi colleghi che speravano che, dice, finalmente sarà la volta buona che conclude, lasciamo soli, tornerà questa con una faccia disperata, viola in faccia, verdastra per quello che ha mangiato, con l'aria sconsolata, dire, ma figuriamoci, questo non me lo darà mai più, ma nemmeno se vivo 10 vite. La guarderanno già tutti come una persona che ha dei problemi. Oggi va a proporre un'altra festa, è impossibile. Quindi ha veramente un motivo oggi per essere triste. Sì. Vero, serio, concreto, non cruento, non truculento, non legato a patologie. Lei purtroppo perderà anche una lavorante, perché Era venuta lì per trovare marito, naturalmente, più che un lavoro. Quindi, probabile. Le regalo un libro che l'aiuterà a darsi il colpo di grazia. Sì. È di Andrea Cedrola, o Cedrola, che non so chi sia. La speranza è un vizio privato. Gerardo Conforti, grandi casi della cronaca nera italiana. Non so che c'entra, però le potrà star bene. Sarà un giusto coronamento. Ci penso un'altra volta, fa prima a dirglielo nella pausa pranzo. Dice, cara, tu che mi piaci, mi garbi parecchio, magari andiamoci a mangiare un panino con la mortadella dopo tanti tanti profiteroli. A presto. Sì, Pierluigi. Sì. Ecco. Pronto? Sì, lei ha già una bella voce triste. Tristissima, non triste. Si figuri che la mia tristezza è perenne, non solo di oggi. E allora oggi che fa lei? Si dà la pazza gioia? No, oggi mi suicido. Vabbè, adesso non ci rida. Ho detto non tocchiamo argomenti. No, adesso io lo dico così per ridere, ma se le racconto la mia storia... Me la racconti, non chiedo di meglio che senti roba triste. No, è che fatalità, ho trovato così lavoro a chiamata tramite un'agenzia, però consideri che ho 59 anni, l'azienda presso cui lavoravo ha chiuso. Sì, però lei sta dicendo motivi, Pierluigi, motivi seri e concreti di tristezza. Oggi, per stare allegri, parliamo della tristezza fittizia che va celebrata nel giorno della tristezza. Non mi importa gli argomenti. Ma è tristezza fittizia, è impossibile che sia fittizia. Come no, la mia fittizia? Ho 10 figli e con 10 figli che ti trovi sulla groppa. Ma perché 10 figli c'ha lei? Perché 10 figli? Perché prima le cose andavano bene e quindi... E giù a far figli. Si amavano i bambini e li abbiamo fatti. In quanti anni l'ha fatti 10 figli? Cosa? In quanti anni 10 figli? Calcoli in 26 anni. Quindi sua moglie, diciamo, un anno sì, un anno no, era incinta? Sì, circa. Ma era d'accordo, era contenta? Sì, più che d'accordo. Abbiamo raggiunto anche la parità, perché abbiamo fatto 5 maschi e 5 femmine. Era una gara tra voi? Questo sarà maschio, questo sarà femmina. E adesso queste 10 bocche da sfamare non sapete come fare? Le prime tre già vivono per conto loro, perché sette vivono alle spalle mie, però come sette nani. Io non avendo più il lavoro che avevo prima. Che lavoro aveva prima? E io facevo l'autista, però sa che di autobus. Sa che a 60 anni le patenti superiori decadono, devi rinnovarle ogni anno. Ma lei non pensava a questo quando si apprestava a concepire il quinto figlio, diciamo? Dice, fra 5 anni a me mi tolgono la patente, come li mantengo questi altri 5? Sì, no, ma non è dovuto a quello. Il discorso è che l'azienda ha chiuso e trovare a 60 anni presso un'altra azienda, perché io posso rinnovarne ancora per 5 anni, ma anno per anno. Però le altre aziende, quando cominciano a 60 anni, sono restie a prenderti. È una situazione veramente drammatica, non è che è triste perché oggi scherziamo, è una situazione grave e drammatica. Posso solo augurarle di risolvere questo. Quanti anni ha l'ultimo dei 10 figli? È giovane, ha 3 anni. Adesso però, diciamo, dà uno stop alla sua attività procreatrice, almeno per un po'. Ma quello è senz'altro, senza ombra di dubbio, però le dico, prima le cose erano ben diverse, ero molto più felice e non avevo nessun problema. Lo so, ma la vita è fatta così, la vita è fatta a scale, dei giorni si scende, dei giorni si sale. Le auguro di trovare la maniera di portare felicemente all'età adulta anche i restanti 7 figli, in bocca al lupo. Ci sentiamo tra un istante. Melog, cronache meridiane. Papà, non guardi più la televisione? Sono stanco della vita ormai. Che fai, fumi? Sì, e bevo anche. E mammina dov'è? Mammina sarà uscita a comprare del pane, tesoro mio. Siediti qui vicino a tuo padre. Vedi, amore, sei grande. Se mammina, che è buona come il pane, peraltro, ci dovesse lasciare, che sarà di noi? Non ti preoccupare, papà. Sì. Saremo insieme tutta la vita, soli tu ed io. Una giornatina allegra per Fantozzi, che si consola con la figlia, Mariangela, dopo aver scoperto che la moglie lo tradisce con Diego Abbatantuono che gli dà lo sfilatino tutte le mattine. Trova la casa piena di filoni, filoncini, sfilatini, rosette, cornetti. La moglie era talmente infogliata dei doppi sensi fallici del fornaio Diego Abbatantuono che andava lì e comprava continuamente filoni e poi li metteva dentro, nascondeva negli armadi. E Fantozzi di questo era molto addolorato, ma nulla a che fare con la tristezza. È triste la scena e ci viene da ridere. La vicenda drammatica del signore con 10 figli che ha parlato prima è una vicenda da storie vere in televisione, da conduttori e conduttrici che guardano, faremo qualcosa per noi. È il vero motivo di mestizia. Io oggi voglio semplicemente dimostrare che oggi è una tristezza artificiale, inventata, come artificiale la gioia di tante altre feste, come artificiale il senso di solidarietà di tante altre feste, come artificiale è l'euforia di tante altre feste, come artificiale il senso profondo di comunione religiosa di tante altre feste, per molti. Oggi è una tristezza finta, bisogna essere tristi. Oggi una buona occasione per guardarsi in faccia, non me lo dica, signora mia, oggi che giornata triste, non me lo dica, sono a letto, mi sento malissimo, non mi muovo, io non riesco a uscire di casa. Ecco, oggi potete dirlo, perché oggi è il giorno della finta tristezza. Vincenzo. Salve. Sei triste, sento dalla voce. Sono molto triste, Sono molto triste perché si sono rotti i tergicristalli della macchina stamattina. E beh, perché quindi è ghiacciata. Quindi piove e io non posso muovermi di casa. E la seconda cosa più triste è tristissima. Si possono anche cambiare, È il motorino certo, bruciato? Non posso andare, siccome piove, non posso andare a cambiare i tergicristalli perché piove. Perché piove. E ma non ci sono i signori che vendono gli ombrelli per strada del Bangladesh nella tua città? Il problema è che si sono rotti. Io devo portare da avere l'auto, la macchina, e quindi non è che posso andare a piedi a comprare i tergicristalli, devo cambiare il motorino. Comunque, il motorino. Non è questa la cosa ancora più triste. Vabbè, questo è già un buon motivo. Ma relativo, perché io sono costretto a casa e stamattina non c'è segnale a DSL. Non c'è DSL? Io sono senza internet. E beh, non puoi usare il router del tuo telefonino, usare la connessione del telefonino con il computer? No. Perché no? Perché non c'ho internet sul telefonino, ce l'ho solo a casa. Vabbè, sei sfigatissimo. Chi è che non c'ha internet nel telefonino? Questo è veramente motivo. Io non c'ho internet. Eri già potenzialmente triste oggi. Quindi oggi non sai come riempire la tua giornata e ascolti la radio. No, è la cosa più tragica, sai qual è, Nicoletti? Che, questa è la fortuna però. La radio si è ripresa 40 minuti fa, perché fino a 40 minuti fa Radio 24 non trasmetteva. Ma pensa te, non c'era segnale. Questo era veramente un motivo di tristezza. Io quando ho acceso la radio non c'era segnale, ho detto vabbè, allora oggi... Niente. Vabbè. Non ti rimane nulla. Metto avanti al caminetto e aspetto che passi la giornata. Ti rimangono gli antichi intrattenimenti fanciulleschi che nulla costano e non richiedono energia elettrica, l'unica cosa che puoi fare oggi per rompere la monotonia. Vabbè, ti faccio un regalino, va. Il tesoro di Leonardo di Massimo Polidoro. È un libro per bambini, che non è che sia particolarmente triste, però te lo metti lì a casa, ci sta anche bene, una casa senza DSL, quindi è come se non ci fosse il focolare acceso, triste, fra un po' non potrai nemmeno vedere la televisione perché non puoi vedere Netflix, non puoi vedere tutte quelle cose lì, non ti puoi sentire la musica, puoi ancora sentire la radio finché le batterie di quella radiolina, batterie residua che a casa si esauriranno, poi come la piccola fiammiferaia, vedrai in un sogno tutta la tua vita, la tua nonna e per te sarà finita perché finalmente arriverà il martedì, che sarà un martedì come gli altri. Marco, buongiorno. Buongiorno, mi sente? Sì, bene, bene, bella voce impostata sulla tristezza, mi dica Marco. Tristissimo, anche brutto giorno. Allora, che è successo? Allora, mi faccio, le spiego. Da Padova fino a Venezia per una trasferta di lavoro e già che ci sono sento su WhatsApp una vecchia fiamma della scuola media. E dico, senti. No, scusi, no, fermo, ma Marco, aspetti un attimo. Lei fa Padova Venezia in questa mattina in cui girano foto tarocche della laguna ghiacciata, che non è vero. Comunque sarà una giornata rigida. Già. Io ero a Mestre, la parte brutta di Venezia. Mestre, come dire, certo, la parte triste di Venezia, è vero. Di fronte al Canal Grande, Mestre, sto a Venezia, ma in realtà stai a Mestre. Stare dall'altra parte del muro. E già è triste questo in sé. Vabbè, non è neanche un comune. Niente, nemmeno, è un luogo. No, davvero, una frazione. Allora, e questa fiamma mi dice, ma sì, che bello, dopo un anno che diciamo che ci dobbiamo vedere... Ma perché sente questa fiaba su WhatsApp? Così, perché io tanto 42 anni, sono ancora solo e dico, magari ci scappa qualcosa, no? Ma la fiaba che vuol dire? Non ho capito. Ah, la fiamma, avevo capito la fiaba, mi scusi. Ah, sento, sì, una sua vecchia fiamma. Improvvisamente la cerca su WhatsApp una donna. Sì. Ma come mai? Sarà sbagliata o era proprio, cercava proprio lei? No, cercavo proprio lei. Allora, comunque, naturalmente il appuntamento non va bene. Questa è una compagna di scuole medie, quindi non la vede da almeno 30 anni. Sì, è neanche tanto bella, però... Che vuole? Anche bella la vuole, scusi, quanto pretende. Esatto. Si accontenti quello che passa al mercato, allora? Sì, e allora, dico, alla sera si mangia insieme tutto. Io ho già intortato, compro giacca, compro cappello, compro tutto. Quindi si è ripulito per l'occasione? Ripulito, sì, ripulito, rifatto, anche fatto la barba, io che... Si è anche lavato, che normalmente non si lava molto. No. E quindi, com'è finita? Quindi è finita, questo mi dice, ma se si fa dopo le 8 c'è anche mio marito. Che allegria, questa sera c'è la cenetta, complimenti, ha comprato una giacchetta, ha comprato un vestitino, si è fatto la barbetta, si è lavato, è andato verso Mestre sperando che fosse il coronamento e finalmente avrà una donna, avrà il marito, l'unica sua speranza, se i mariti che gli piace guardare e le offriranno qualcosa, probabilmente uscirà dalla sua routine, ma questo romperà la maledizione del triste lunedì. Alla prossima, allegramente.